L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, come sempre, Radio 24, come sempre ogni sabato per raccontare la nostra Europa, camminare insieme al percorso che l'Europa sta facendo. Cerchiamo altre Europe, cerchiamo cioè anche altri punti di vista, lo facciamo attraverso i fatti d'attualità, ma lo facciamo anche attraverso le storie e le persone. Un programma in collaborazione con Euronet Plus, network europeo, tante voci per raccontarla, questa Unione Europea. Ci trovate anche su Twitter e su Facebook, i profili sono i miei personali, Federico Taddia, piazze virtuali dove mettiamo i link minuto per minuto degli argomenti che andiamo a toccare. Quella di oggi sarà una puntata particolare perché il filo conduttore sarà quello di una storia d'amore tra l'Italia e l'Europa, tra noi e l'Europa. Eravamo tanto amati, Italia, Europa e poi è il sottotitolo di questo libro edito dall'Università Bocconi Editore, scritto da Pier Virgilio D'Astoli e da Roberto Santaniello. E do il benvenuto a Roberto Santaniello che è qua in studio con noi. Ciao Roberto. Ciao, ciao. Direttore delle relazioni internazionali del Comune di Milano e già portavoce della rappresentanza della Commissione Europea in Italia, uomo che conosce molto bene l'Europa, ma soprattutto ama tanto l'Europa, vero? Assolutamente, diciamo la bazzico da quando ho finito l'università, nel lontanissimo 1986, sono partito con la mia valigetta pieno di entusiasmo e di grandi ideali, riuscendo a intercettare un grande uomo politico europeo come Altiero Spinelli, che purtroppo un anno dopo ci ha lasciato, però è stata un'esperienza che mi ha marcato e che mi ha, in ogni luogo che ho, per il quale ho lavorato e dove ho lavorato, ho sempre cercato di portare avanti l'idea spinelliana, come il libro lo dimostra ampiamente, anche perché l'ho scritto col suo assistente politico storico Pier Virgilio D'Astoli. Tanti anni di palazzo e tanti anni di territorio, è molto bella anche questa tua contaminazione, perché una cosa è vivere l'Europa lì da Bruxelles, un'altra cosa è vivere l'Europa nelle città, nelle realtà, quello che hai fatto a Milano, quello che stai facendo a Milano. Questo entusiasmo e soprattutto questi ideali iniziali riesci a viverli ancora nella tua quotidianità? Beh, diciamo, nei miei convegni dico sempre che sono passato dall'idealismo dal primo idealismo, cioè al professionismo dell'Europa, ma sono talmente contaminate le due cose che è impossibile scinderle. E come giustamente dici te, il fatto che sono uomo di palazzo, ma anche uomo di strada, mi ha aiutato molto nella comprensione dei problemi. A volte mi scontravo con i miei colleghi di Bruxelles perché a volte sembrano un po' sospesi in una bolla, che non capiscono benissimo alcuni problemi. A volte ho sempre pensato che se ci fosse uno scambio per un paio di anni di funzionari nazionali dei vari ministeri che vanno a lavorare in commissione, quelli della commissione vanno a lavorare negli stati membri, forse alcune complessità o qualche incomprensione verrebbe meno e l'osmosi sarebbe ancora più bella e migliore di quella che è oggi. Oggi andremo a scoprire, grazie al tuo libro, questa storia d'amore. Ci eravamo tanto amati, sono diversi capitoli, poi ne parleremo con profondità. Però vorrei partire dal sottotitolo e dall'ultima parte del sottotitolo, un po' come svelare subito il finale di questo giallo. Italia, Europa e poi? E poi? E poi è una storia ancora da scrivere e ampiamente. Un giallista non avrebbe ancora trovato la soluzione del rebus, quindi in realtà la prima cosa che vorrei sottolineare è che c'eravamo tanto amati potrebbe nascondere molto disincanto, quasi rassegnazione o tristezza per un rapporto che sta scemando. In realtà il libro è esattamente l'opposto. Ti confesso che la scelta del titolo è stata in qualche modo concordata con Pier Virgilio e con gli editori, perché purtroppo sappiamo che quando, cioè questo non era un libro, certo un libro che ha anche una, diciamo, una vocazione commerciale, per quanto ci riguarda la nostra ambizione è che questo libro venga letto e di cercare di far capire che esiste, che secondo me, secondo noi è ben scritto e scrive cose intelligenti. Però quando un editore sente parlare del titolo di Europa, dice attenzione, guardate che partiamo da un meno 20 di potenziale non compratori, perché effettivamente l'Europa, questa parola che potrebbe e che scalda il cuore, almeno il mio, lo vedi negli occhi, nella voce, che è sempre un miraggio, una visione della vita e della mia esperienza, in realtà qualche persona spaventa, cioè non c'è dubbio che nel dibattito attuale sentire parlare di Europa, di problemi di bilancio, di rigore, di Germania, e possiamo utilizzare tantissime altre parole, spaventa o mette in una situazione di forte imbarazzo e spesso di soggezione. Roberto, ma Spinelli oggi cosa direbbe secondo te? Amerebbe questa Europa? C'è qualcosa che assomiglia rispetto a quello che lui aveva in testa? Beh, certamente Spinelli la penultima cosa che aveva in testa è stato il suo mirabile progetto di trattato istituente dell'Unione Europea, che è arrivato ben 20 anni prima del Trattato di Lisbona, anche se quel trattato, quel progetto era già una vera Costituzione, che poi, come sappiamo, è fallita nelle primavere del 2005 dopo i referendum francesi e dei Paesi Bassi. Beh, credo che Altiero Spinelli partirebbe proprio da questo senso di disincanto che oggi ha l'opinione pubblica nei confronti della costruzione comunitaria. Non c'è dubbio che le prossime elezioni europee siano una cartina di tornasole fondamentale. Io amerei che le istituzioni comunitarie, ma anche i governi e i partiti nazionali, affrontassero questa scadenza con attenzione e con tutta la necessaria appunto attenzione, perché è evidente che il prossimo Parlamento europeo potrebbe essere animato da forze che non hanno nulla a che fare con i partiti tradizionali, ma posso immaginare abbiano a che fare con movimenti a favore dell'Unione Europea, ma anche fortemente contro l'Unione Europea. Cioè io immagino una forte presenza di euroscetticismo se da qui al maggio del 2014 non vi sia un vero impegno da parte di tutti, istituzioni, governi, partiti politici, affinché l'Unione Europea riprenda un cammino che sia chiaramente percepibile dall'opinione pubblica europea. Magari dopo andiamo a vedere anche quelli che sono gli elementi, quelli che possono essere le tappe di questo cammino. Adesso ci fermiamo, un post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, e poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Live Mocha. Imparare e insegnare le lingue low cost. Volete imparare le lingue con un insegnante madrelingua, ma non avete soldi da spendere? Ancora una volta il web vi viene incontro. Da qualche tempo è nato il portale Live Mocha, una comunità online che aiuta a imparare una lingua straniera sia grazie a corsi che grazie all'interazione con altri membri della comunità che sono madrelingua. Basta iscriversi, scegliere la lingua e seguire il corso online. Gli esercizi scritti di conversazione e di ascolto verranno poi corretti dai madrelingua della lingua che avete scelto. Ovviamente anche voi potrete essere insegnanti e, segnalando la vostra lingua madre, correggerete poi gli esercizi e la pronuncia di chi ne ha bisogno. Ultimo, ma non meno importante, grazie alle conversazioni e agli esercizi potrete fare amicizia con altri studenti insegnanti, imparare cose utili sulla cultura di cui state studiando il linguaggio e magari un giorno incontrarvi per una chiacchierata dal vivo. Per capire come funziona, andate sul portale livemocha.com. L'altra Europa. I like to be in Erasmus. I love my life in Erasmus. I meet people with a good vibration. I like to be in Erasmus. I love my life in Erasmus. I meet people. Life in Erasmus è un po' il nostro inno delle tante volte in cui parliamo di Erasmus, perché consideriamo comunque l'Erasmus una delle colonne portanti della creazione perlomeno di uno spirito europeo, di una generazione nativa col concetto di Unione Europea. Roberto Santaniello, credo che... No, tu non hai fatto l'Erasmus. No, però nel 1985 lessi il primo rapporto a Donnino, del un parlamentare europeo avvocato in Roma, che elencò tutte le varie iniziative per rendere più evidente, più visibile l'Europa dei cittadini, e si pronunciò questo fatidico nome di Erasmus, che poi è stato oggettivamente il programma di maggiore successo che l'Unione Europea ha lanciato nel corso degli anni, è indubbio. Non mi trovi impreparato nel dirti quanti sono, lo saprai sicuramente a memoria. Sì, esatto, ma e poi ha ispirato tanti progetti simili, l'Erasmus per gli imprenditori. Adesso si parla dell'Erasmus del lavoro, che è proprio una sorta di incentivare questa mobilità, questo scambio. So che la parola mobilità è una parola che ti piace, perché dentro assolutamente la forza dell'Europa. Sì, è nelle mie corde ed è francamente il vero problema che oggi a cui si trova confrontata l'Europa, perché la mobilità è sicuramente uno dei, non degli insuccessi, perché tutto è pronto dal punto di vista, tutto è fatto dal punto di vista giuridico, amministrativo, burocratico, passare le frontiere, avere un permesso di lavoro, il diritto di soggiorno per gli studenti, per tutti. Manca a mio avviso manca proprio invece il desiderio pionieristico di voler cimentarsi con altre culture. Lo hanno i giovani, non vedo perché non lo abbiano anche dei lavoratori che sono in difficoltà, che possono trovare sbocchi di lavoro insperati in posti certamente lontani da quelli nativi. Però non vedo perché posso usare mille esempi, un neo disoccupato calabrese perché non può andare a finire a Copenaghen o a Manchester o a Birmingham o viceversa. C'è guarda, tante volte abbiamo sfogliato insieme agli ascoltatori anche il portale Eures, che proprio nasce per mettere insieme quella che è l'offerta e quella che è la richiesta, però allargando il palco a tutta l'Europa, non solo al tuo paesino, non solo alla tua città. E poi se la fuga, come la chiamano in maniera impropria, la fuga dei cervelli non deve essere mai vista in senso unilaterale, perché se fugge qualcuno da noi c'è anche qualcuno che entra, perché non è vero che è così. Insomma, è una chiusura culturale che non ha ragione d'essere in un mondo globalizzato. E a noi alla teoria piace legare sempre la pratica, cioè le storie, cioè le persone. E la storia di oggi parla di confini, parla di limiti, parla anche di mobilità difficoltosa, ma è una storia. È la storia di Giorgio Graziotti, studente Erasmus, ha ricevuto a Firenze, in occasione della Festa dell'Europa, il premio per il coraggio, perché lui ha fatto l'Erasmus, benché sia affetto da tetraparesi spastica, quella che lui chiama un piccolo difettuccio di fabbrica. Diamo il benvenuto a Giorgio Graziotti. Ciao Giorgio, buon sabato. Ciao Federico, buon sabato a voi. È stata una scelta coraggiosa la tua? Assolutamente, penso che sia stata una scelta un po' inconsapevole all'inizio, che poi si è rivelata fondamentale per la mia vita in generale. Tu hai 22 anni, sei già laureato in triennale in scienze della comunicazione, ora stai facendo la specialistica all'Università della Tuscia. Cosa vuol dire essere affetti da tetraparesi spastica? Tu sei in carrozzina, tu hai fatto l'Erasmus insieme a un accompagnatore? Sì, assolutamente, ho fatto un Erasmus insieme a un accompagnatore che, devo dirti, è stato più un compagno di viaggio che un vero e proprio accompagnatore, perché questa persona mi ha permesso anche di provare proprio a mettermi in gioco completamente in una realtà che comunque non era la mia e comunque con molti che mi si presentava con molte difficoltà, perché sai, essendo diversamente abile comunque ci sono delle difficoltà sempre maggiori rispetto a dei ragazzi cosiddetti normodotati nell'affrontare questo tipo di esperienza. Però devo dire che poi tolti i dubbi dell'inizio e la paura iniziale, tutto è andato a finire bene. Giorgio, ma al di là della disabilità, tu perché hai voluto fare l'Erasmus? Allora, io, questo è un aneddoto molto carino, perché io inizialmente devo dire che ho fatto questa richiesta di borsa di studio Erasmus giocando, perché ho detto tanto sicuramente non mi prenderanno mai, poi invece non è stato assolutamente così, mi hanno preso, e devo dirti che la mia inconsapevolezza iniziale, che comunque era dovuta, come ti dicevo, a questo fatto di dire tanto non mi prenderanno mai, ha lasciato il posto a molta insicurezza. Però devo dirti che è stata fondamentale la figura di mia madre, che ha mi ha guidato e mi ha spinto proprio a fare questa esperienza e a superare i miei limiti, perché comunque è stato un grande superamento per me vivere da solo 6 mesi, anche se con un accompagnatore non è semplice. Io sono molto cambiato, questa esperienza mi ha cambiato profondamente, e devo dirti che io devo ringraziare e ringrazierò per sempre mia madre, che è la figura fondamentale della mia vita, perché mi ha come sempre mi ha sostenuto e mi ha anche spinto, in maniera anche abbastanza dura, a provare a superare i miei limiti. Ma ci sono riuscito, quindi. Quindi insomma aveva ragione lei a darti dei calci nel sedere. Giorgio, sei tornato un po' più europeo? Sono tornato un po' più europeo, un po' meno ho avuto meno fiducia nei confronti della realtà italiana, perché comunque mi sono scontrato con una realtà, cioè quella spagnola, che è completamente diversa, in cui sono stato valutato come ragazzo e ragazza, non sono stato valutato come una persona comunque che ha un handicap. Questa è stata una cosa fondamentale che mi ha sbalordito, mi ha cambiato la vita, perché per la prima volta essere valutati come persona e non perché si è sopra una carrozzina mi ha proprio aperto un mondo che a Viterbo non, purtroppo, essendo Viterbo una città molto piccola e con una mentalità piuttosto provinciale, non è stato così. Mi dispiace dirlo, ma io devo dirti che sono anche fortunato, perché ho fatto la mia triennale in una realtà molto molto carina, molto protetta e anche abbastanza all'avanguardia, perché io ho avuto comunque la possibilità, grazie a molte persone, tra cui il professor Saverio Senni, che è il delegato del rettore per la disabilità, di vivere la mia esperienza triennale in maniera stupenda. Io ho avuto, e anche le persone che mi hanno assistito e che mi sono state vicine anche dal punto di vista didattico, sono delle persone stupende. Io ringrazierò loro per tutto quello che hanno fatto, però quando mi sono trovato a Siviglia è stata un'altra cosa, io ho visto un altro tipo di realtà anche dal punto di vista didattico, e spero che cioè il valore dell'Erasmus poi è questo, è vivere un'esperienza, farla propria e riportarla anche nella propria realtà. Infatti è quello che vorrei fare, questo è il lavoro che stiamo provando a fare anche con il professor Senni, che è una persona estremamente disponibile e curiosa e che mi sta aiutando un po' anche in questo. Grazie davvero Giorgio, complimenti per la tua scelta e continua a credere nell'Europa. Ciao! Grazie mille, ciao. Questa è l'Europa, e ti vedevo Roberto che commentavi le parole di Giorgio, c'è un po' questo rischio, uno va all'estero, vede che le cose sono diverse, spesso sono migliori o ci sembrano migliori perché fa comodo pensare che siano migliori, poi però bisogna riportare a casa. No, diciamo naturalmente l'entusiasmo contagiante del ragazzo mi faceva pensare esattamente questo, poi quando è subentrata anche un po' più di un certo ragionamento, posso anche spiegarmi che ci sono gli Erasmus brevi, gli Erasmus medi e gli Erasmus lunghissimi. A volte gli Erasmus lunghissimi ti permettono di conoscere a fondo i sistemi e non si è più tanto così entusiasti, perché poi naturalmente in quelli brevi, in quelli di 6 mesi eccetera, non riesci ad accorgerti solo raramente che quelle cose che non funzionano anche negli altri paesi. Ed è bello così. Io sono assolutamente sicuro che uno studente Erasmus, perché è così, che viene a studiare in Italia, trova il nostro sistema altrettanto meraviglioso. Poi se alla lunga comincerebbe a pensare che qualche problemuccio c'è. Questa è Europa, E poi c'è un problema di fondo, credo che insomma è stato anche il tuo settore, che c'è un problema di fondo che è quello della comunicazione. Noi parliamo spesso, è il problema. Settore, è il noi settore. Parliamo spesso dell'Europa sottolineando soprattutto quelli che sono i punti positivi, o meglio le opportunità, perché crediamo che sia quello un vero nodo. Ci sono tantissime opportunità, ma la gente non lo sa. Eh sì, perché lì entriamo in un dibattito che è infinito che è pane quotidiano di ripetuti convegni, forse un po' stancanti. Forse anche, troppi convegni anche lì. Forse troppo stancanti, dove effettivamente colui che dà le notizie, che fornisce, dice al giornalista: beh, voi non siete poco carini con noi perché parlate solo delle cose negative, non quelle positive, eccetera. Il giornalista dice: ma voi non ce le fate sapere, il messaggio è sempre un po' ambiguo. Insomma, queste sono cose. Certamente l'Unione Europea storicamente ha fatto un mucchio, uso questo termine, di belle cose, e forse se si sapessero con un po' più di chiarezza sarebbe meglio, ma questo fa parte anche della curiosità di coloro che vogliono andarsene a cercare queste notizie, e ci sono, e fortunatamente internet da questo punto di vista è una miniera inesauribile. Ci fermiamo, ma ci torniamo tra pochissimo. Un Europost-it, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. University Europe, un aiuto alle future matricole europee. State per scegliere l'università? Studiare architettura a Milano costa di più o di meno che studiarla a Stoccolma? La qualità degli insegnamenti di ingegneria a Londra è migliore o peggiore della stessa facoltà in Finlandia? Qual è il miglior rapporto qualità-prezzo dei vari atenei europei? Per questo c'è il portale Universities Europe, che aiuta ad orientarsi tra le facoltà europee e sul quale sono a disposizione i dati sulle tasse accademiche e i confronti tra costi e qualità in base ai ranking internazionali. Siete talmente indecisi che sapete solo dire in quale paese volete andare a studiare? Il sito vi mostra tutta l'offerta accademica di quel dato paese, divisa per facoltà e costi. Siete curiosi? Andate su universitieseurope.net. L'altra Europa. C'eravamo tanto amati per un anno e forse più. C'eravamo poi lasciati, non ricordo come fu. Ma una sera ci incontrammo per fatal combinazione, perché insieme riparammo dalla pioggia in un portone. Buon sabato ancora da Federico Taddia. Questa è sempre l'altra Europa. C'eravamo tanto amati, questa è la canzone, questo è anche il titolo del libro di Pier Virgilio D'Astoli e Roberto Santagnello, che oggi stiamo usando un po' come colonna di questa puntata per raccontare questa bizzarra storia d'amore, dove la parola d'amore sembra parola grossa, però è un rapporto a volte di convenienza, a volte è un rapporto obbligato, a volte è un rapporto che sembra non possa e non debba portare a nessuna meta, il rapporto tra i cittadini e l'Europa, perché di questo stiamo parlando. In questo che è anche l'anno europeo dei cittadini, questo è l'anno prima delle elezioni europee che ci saranno appunto nel 2014, tanti temi caldissimi con me Roberto Santagnello. Roberto, ma è anche un problema forse di governance? La domanda chi governa l'Europa è abbastanza capace, è una domanda lo so che può essere imbarazzante, però uno se lo chiede, soprattutto in questo momento dove i politici sono messi in croce a prescindere. Sì, guarda, ma mi sta venendo in mente che la persona che ci ha fatto la prefazione a questo libro, così faccio anche un po' di pubblicità, che è Romano Prodi, che è stato presidente della Commissione europea, aveva lanciato, purtroppo in un momento assolutamente sbagliato, cioè nel 2001, cioè quando ci fu le Torri Gemelle del 2001, l'attentato, sì. In questo libro bianco sulla governance europea, dove effettivamente poneva la questione di come il governo dell'Europa, che è ramificato tra stati, tra le regioni, tra i comuni, dovesse essere in qualche modo articolato. Stiamo ancora là, cioè dobbiamo ancora capire come, di fronte a un mondo globalizzato, le decisioni devono essere assunte e come devono essere assunte. Oggi abbiamo alcuni elementi chiari, cioè le decisioni riguardanti la politica monetaria vengono prese in una città tedesca che ha un nome, aiutami, ricordamelo, sì, Francoforte. Sì, esatto. E la politica economica viene presa, vengono prese le decisioni interamente a Bruxelles o in qualche altra città più importante, qualche capitale più importante delle altre. Credo che occorra proprio riequilibrare, questa è una delle tesi del libro naturalmente, sulla politica economica, la capacità degli stati e dei governi di poter decidere serenamente come andare avanti, e questo fa parte delle responsabilità collettive di un progetto che deve essere europeo, che era partito come europeo da parte dei padri fondatori. E naturalmente bisognerebbe ricordarcelo con un po' di visione in più, i visionaire, cioè quelli che pensano che comunque un progetto deve essere portato avanti e devono crederci. Io qualche volta abbiamo la sensazione che i governi, che i capi di Stato e di governo non credano più completamente a questa idea e spesso e volentieri non si fidino l'uno degli altri. Mm-hmm. Credo che un bel bagno di umiltà e di reciproca fiducia sarebbe molto utile affinché questo processo possa ripartire. Esattamente nel senso che ti ho detto in precedenza, cioè le elezioni europee saranno un momento importante. Rischiamo che l'opinione pubblica, che sente parlare di rigore, rigore, rigore, rigore, e non vede la crescita, non vede l'elemento buono di questo progetto, beh, possa, oltre ad esserne un po' disincantata, potrebbe stancarsene oppure potrebbe anche addirittura imbizzarrirsi. E Roberto, qui all'Altra Europa ci piace anche raccontare altre visioni, a volte molto lontane da quelle del palazzo, e l'esperienza di oggi rientra proprio in questa categoria, perché stiamo parlando dell'Europa come colosso economico, come colosso sociale, come colosso politico, però l'Europa è anche un colosso ambientale, è territorio, è bosco, è fiume, è montagna, è mare, perché è l'Europa è questa. E abbiamo scoperto questa fondazione danese, Rewilding Europe, che vuole fare dell'Europa un luogo più selvaggio, che vuol dire un luogo più naturale, che vuol dire un luogo forse simile a quella che era l'Europa tempo passato. E con noi c'è Alberto Zocchi, che è un naturalista esperto in conservazione della natura, e pronto per raccontarci quello che fanno in questa fondazione. Ciao Alberto, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Siete dei visionari, fate anche voi parte di quella bizzarra categoria che alla fine riesce a cambiare le cose. Beh, sì, di quella categoria che tenta da una vita di cambiare le cose e cerca di anche adeguarsi ai tempi, se vogliamo. L'Europa è un continente che cambia continuamente e cambia anche l'assetto naturale. Rewilding in realtà parte da una osservazione che l'Europa ha visto, come dire, concretizzarsi una serie di sforzi enormi per salvare specie in via di estinzione, ambienti che spariscono, eccetera, con anche dei risultati. Io credo che in qualche modo andrebbe celebrata questa, come dire, questi risultati positivi che si sono ottenuti dopo decenni di sforzi. E l'osservazione di base sostanzialmente è che l'Europa si sta rinselvatichendo, diciamo così, per usare una brutta traduzione del termine rewilding. Un dato interessante è che una superficie pari a quella della Germania oggi è coperta da terreni che sono abbandonati, soprattutto nelle aree di collina e di montagna. L'abbandono delle pratiche tradizionali di agricoltura, l'abbandono della pastorizia, dell'allevamento brado sulle montagne fatto dai nostri pastori che stanno nelle favole, ormai non esiste quasi più. E questo ha, diciamo, due effetti. Uno è un effetto negativo, perché tutte queste aree abbandonate vengono rioccupate prima da cespuglieti, poi da foreste, e in sostanza si rende più uniforme il paesaggio, non è più così diverso come era in passato, e questo porta ad una perdita di biodiversità. Questo fatto è riconosciuto anche dalla Commissione europea, che finanzia attraverso uno strumento specifico per la conservazione della natura, che è uno strumento finanziario chiamato LIFE, finanzia progetti che hanno lo scopo di tentare di riportare a uno stadio migliore proprio questi terreni che tendono ad essere abbandonati e che portano con sé invece testimonianze di una natura che tende ad essere minacciata. E nello specifico, quindi, sono state scelte, se ho ben capito, individuate 5 aree europee. Cosa farete in queste 5 aree europee? Dunque, il progetto è ancora più ambizioso. Rewilding Europe ha lo scopo di individuare 10 aree in Europa, 5 sono già state individuate e si è iniziato a lavorarci già da un anno e mezzo, che abbiano delle caratteristiche, ossia una superficie superiore ai 100.000 ettari e uno stato di sostanzialmente di abbandono, di abbandono da parte delle pratiche tradizionali. Questo abbandono ha portato al recupero da parte della natura selvaggia. Perfino in Italia il lupo, che ormai era ridotto soltanto in poche zone come il Parco d'Abruzzo e altri piccoli nuclei 40 anni fa, oggi ha rioccupato tutta la catena appenninica arrivando fino sulle Alpi, sì, e occupando tutto l'arco alpino. Allora, questa osservazione del recupero, come dire, anche relativamente rapido della natura ha portato a pensare: ma perché spendere tanti soldi per andare fisicamente a sostituirsi a quelle che erano le pratiche tradizionali, tagliare i cespugli, ritagliare le foreste, recuperare questi ambienti aperti? Facciamo fare il lavoro alla natura. Queste aree selvagge che portano con sé orsi, lupi, linci, bisonti e tutta una fauna che è estremamente, come dire, attrattiva anche da un punto di vista turistico, possono diventare delle aree nelle quali creare delle nuove opportunità di lavoro e un nuovo rapporto tra le persone e l'ambiente, soprattutto in aree e in piccoli villaggi, paesi nei quali la gente fatica a trovare opportunità di lavoro, emigra, abbandona a malincuore il proprio paese, mentre hanno a disposizione un capitale naturale che non utilizza più nessuno, perché sostanzialmente non sa come utilizzarlo in un modo nuovo. Alberto, grazie davvero per averci introdotto all'argomento, ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa, perché vorrei approfondirlo, vorrei andare a vedere proprio nel concreto le varie aree e quelle che sono le attività che verranno messe in atto. Nel frattempo diamo il sito per chi volesse saperne di più, che è www.rewildingeurope.com. Grazie davvero Alberto, ciao e buon sabato. Grazie a voi, altrettanto, arrivederci. L'altra Europa. Ancora l'altra Europa, usiamo questa colonna sonora di Mediterraneo perché andiamo a parlare di cultura, parola che viene spesa troppe poche volte, Roberto, io credo, no? All'interno del percorso europeo. È vero che prima c'è la politica, è vero che prima c'è l'economia, è vero che prima c'è la crisi, però la cultura è veramente cemento, la cultura è veramente contaminazione, credo che insomma, concordi. Sì, assolutamente, la cultura deve amalgamarsi e impastarsi di una identità comune europea, su questo non c'è dubbio, non bisogna essere spaventati di questo, anzi, più ci amalgamiamo e più stiamo sereni. Anche la cultura sarà una delle colonne portanti dell'Expo di Milano, ne parliamo fra pochissimo. Prima andiamo a scoprire cosa succede in una città quando diventa capitale europea, e lo facciamo spesso, le andiamo a visitare queste capitali europee della cultura, e oggi siamo di nuovo a Marsiglia perché è stato inaugurato da qualche settimana un museo che ci ha molto colpito, il Musem, il Museo delle Civiltà d'Europa e del Mediterraneo. Con noi c'è una delle dipendenti, delle persone che lavora alla programmazione del museo stesso. Diamo il benvenuto a Elisabetta Sestore. Ciao Elisabeth. Ciao, buongiorno. Un museo della civiltà dell'Europa e del Mediterraneo, una vera e propria cittadella culturale. Ci ha colpito molto la presentazione, ci puoi accompagnare all'interno di questi 44.000 metri quadrati? Sì, perché abbiamo delle mostre e abbiamo anche una programmazione di cinema, di conferenze, di letture, di spettacoli, e così quasi tutti i giorni si passa qualcosa, è per questo che parliamo di una città culturale, non solo di un museo. È stata veramente un'occasione di cambiamento per Marsiglia questo anno? Sì, è un cambiamento importante. Normalmente si parla di Marsiglia solo per i problemi, perché è una città molto popolare, con problemi sociali, e questa volta parliamo di cultura. Abbiamo avuto quasi 100.000 visitatori durante una settimana, quindi fa molto piacere di vedere che la città cambia e che cambia in un modo positivo. Uh-huh. Elisabetta, ti faccio fare la guida per un attimo. Qual è una cosa assolutamente da guardare all'interno del Musem? C'è la mostra importante che si chiama Il Nero e il Blu, che si tratta delle rappresentazioni del Mediterraneo dall'Ottocento fino a ora, e abbiamo opere importanti anche di artisti italiani come Gabriel Basilico, sì, o Michelangelo Pistoletto. È una mostra veramente interessante, e anche abbiamo un'altra che si chiama che tratta di questioni di genere, e secondo me è importante di trattare di questo tema, di che cosa vuol dire essere una donna o un uomo in questi giorni nel Mediterraneo. Un tema assolutamente attuale. Diamo il sito, che è www.mucem.org, così è scritto. Grazie davvero Elisabeth. Insomma, il 2013 è ancora lungo, quindi Marsiglia è ancora un programma ricchissimo di attività e di eventi, quindi ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa. Ciao, buon sabato. Grazie. Roberto, quello che succede a Marsiglia, quello che è successo in tante città, in questi giorni tra l'altro ci sono tantissime candidature anche italiane per essere poi capitali europee nel 2019, mi sembra che sia quello l'obiettivo, vero? Perché sono eventi, sono occasioni profonde di trasformazione, di rinnovamento, di incontro. Tu stai lavorando all'Expo, quindi una dimensione mondiale, però universale, esatto, però ci sarà anche tanta Europa a Milano. Ci auguriamo proprio di sì, cioè uno degli obiettivi della governance complessa dell'Expo 2015 teneva moltissimo alla partecipazione delle organizzazioni internazionali, pensiamo alle Nazioni Unite, pensiamo alla FAO, e teneva moltissimo all'Unione Europea, che ha aderito ufficialmente all'evento del 2015 e nella consapevolezza che il messaggio, quello generale sull'alimentazione ma anche sulla sostenibilità, è un messaggio che taglia trasversalmente moltissime politiche fino ad arrivare anche alla cultura del cibo, alla cultura della sostenibilità, insomma, quindi ha a che fare molto con le cose che abbiamo sentito dalla nostra amica di Marsiglia. E quindi l'obiettivo generale è quello che si consenta a questo obiettivo potenziale di 20 milioni di visitatori di offrire un'occasione unica anche appunto di mescolanza culturale e non solamente di un momento importante come un'esposizione universale. Quindi io immagino, anzi sappiamo che le iniziative all'Atere saranno moltissime al di fuori del sito espositivo, con la partecipazione di tutti gli stati che faranno parte di questa grande partita. Quindi è evidente che l'Expo deve essere un grande momento per l'Europa. Poi personalmente non mi stanco mai di dire che nel 2015 saranno 30 anni dall'adozione del Libro Bianco sul completamento del mercato interno. Veramente lo ripeto in maniera quasi come un tormentone per far sì che si possa ricordare quel Consiglio europeo del 2015 fatto qui a Milano al Castello Sforzesco, in cui ha preso avvio veramente l'altra Europa. Prendo a prestito il titolo della trasmissione. Spero veramente che, l'ho già suggerito ai dirigenti europei, che la Commissione venga il 25 giugno del 2015 a Bruxelles a festeggiare questo trentennale importante della storia europea. E come non immaginare tutta una serie di composizioni di consigli, il Consiglio dell'Ambiente, il Consiglio Agricoltura, ma non solo, animare dibattiti politici in quei sei mesi che vanno dal maggio all'ottobre del 2015, in cui l'Europa deve far sentire tutto il suo peso, soprattutto con la sua grande capacità di essere, ricordiamocelo sempre, il più grande donatore di aiuto pubblico al mondo, e spesso questo è uno dei dati che viene maggiormente dimenticato a livello mondiale. Ringrazio davvero Roberto Santagnello per essere stato qua con noi. E oggi abbiamo avuto un esempio pratico di cosa significhi amarla l'Europa, crederci, però crederci con cognizione di causa, crederci con competenza, crederci con consapevolezza. Ecco, quelli che stavi rubando la parola, era che esattamente era, secondo me, questa è la parola vera su cui bisogna lavorare molto, cioè avere la consapevolezza che l'Europa è un progetto per tutti e che deve essere. Dobbiamo aiutare a fare in modo che la gente possa comprenderlo fino in fondo. Ci eravamo tanto amati, Roberto Santagnello, Pier Virgilio D'Astoli. Grazie Roberto, questo grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Un grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa, Margherita Aina e Miriam Lucchetti, che come hanno scritto la puntata, Gianmarco Ferronato oggi alla parte tecnica. Vi ricordo che la puntata sarà riascoltabile e scaricabile dal nostro sito radio24.it e ci trovate su Twitter e su Facebook. Ancora buon sabato da Federico Taddia. Ciao! L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.